Eccoci qua, ben trovati e ben trovate a La Fuga del Gatto, puntata del 17, domenica 17 giugno. Finalmente è arrivato un bel po' di caldo e quindi siamo qui a festeggiarlo. Anzi, sono, non è che ancora c'ho il plurale maiestatis, sono da sola oggi e quindi vi narrerò la puntata di oggi con le sue mirabolanti prodezze del suo protagonista, almeno da sola, sì, perché sono da sola appunto. E quindi, siccome la mia voce sarà l'unica che sentirete, mi farò aiutare da un'altra voce scritta questa volta, ovvero da quella di Giulio Confalonieri, autore della Storia della Musica, di un eruditissimo volume di ben quante sono? Un migliaio, sì, circa 1000 pagine di giustamente storia della musica, ce ne vorrebbero ben di più, in effetti, che si deve fare. E appunto Giulio Confalonieri, col suo veramente, devo dire, molto molto molto interessante libro sulla storia della musica, mi aiuterà a parlarvi di Schubert, perché oggi, bene sì, parleremo dell'ultimo degli innocenti, come lo chiama proprio Confalonieri. C'è un nome un po' ambiguo, un po' anni 80, devo dire, Giulio Confalonieri, non me ne voglia, però ecco, ma non c'entra niente. Quindi levatevi subito dalla testa arcore e cose simili, qui non c'entra nulla, siamo ben più sopra, ecco, ci siamo molto più elevati. L'ultimo degli innocenti, vi dicevo. Così viene definito da Giulio Confalonieri Schubert. Partiamo subito dall'inizio, dalla vita e quindi da un po' di note biografiche narrate in maniera, lo sentirete, abbastanza particolare e avvincente, che a me è sembrato un modo molto bello di raccontare la vita di un compositore. Quindi ve le leggo paro senza operare quasi nessuna censura, direi, e poi ci andremo a sentire un bel po' di musica anche, ovviamente, appunto, ovviamente di Schubert. Allora, Franz Serf Peter Schubert nacque da una famiglia di inurbati, cioè di contadini slesiani che avevano disertato i campi per rispondere alle facili lusinghe della capitale austriaca, il 31 gennaio del 1797. La fascinatrice sirena di suo padre era stata la scuola elementare. L'idea di annobilarsi col dimetter l'aratro, armarsi di una verga autorevole e andare in città per insegnare l'ABC ai ragazzi. Del resto, una vaga nostalgia aveva arrestato quel transfuga alle prime case della metropoli. Sì, è vero, dal sobborgo di Lichtenthal si potevano scorgere bene la cupola di Santo Stefano, i palazzi del centro, i giardini delle residenze aristocratiche, ma ancora si respirava odor di boscaglie e la gente non conosceva l'eleganze della vita aulica. Là, a due leghe dal Prater e dal parigianismo degli snob viennesi, la terra ridiventava una fedele realtà tedesca. Dalle colline tutte folte di abeti, i fiumi mandavano al Danubio un tributo d'acque forti e chiare. Franz fu il settimo o l'ottavo di 14 figli, ma già al principio del secolo nuovo era il quarto di 5 superstiti. Nella casa del maestro di scuola una bara stava sempre pronta vicino alle culle. Per lunga tradizione gli Schubert, pur senza possedere il professionale destino degli Scarlatti o dei Bach, coltivavano la musica insieme coi frutti dei campi. Così, nel farsi pedagogo, il babbo di Francesco, abituatevi, si italianizzano i nomi, come ci ha insegnato la italica storia, soprattutto quella, la storia della musica, ecco. Dicevamo, il babbo di Francesco, un Francesco anche lui d'altra parte, non aveva repudiato questo più dolce retaggio, soltanto ci aveva aggiunto un poco di sussiego ed un certo desiderio di dimenticare i landler rurali a vantaggio della musica per signori. Nella sua idea ben ferma, i 14 nati sarebbero dovuti diventare 14 maestri di scuola. Infatti era assai confortante poter far seguire al proprio nome una qualifica tanto onorata. Lui se ne ricordava ogni volta e pensava che più bella eredità la sua parola non avesse da chiedergli. Di conseguenza, quando Franz venne messo al violino in età di 8 anni, nessuno poteva immaginare di sottrarre un sacerdote agli altari delle aule scolastiche, tanto più che il fanciullo, nel suo aspetto fisico, fisico, non aveva proprio nulla del predestinato all'arte. Un testone tondo, avvitato sulle spalle senza intermediario di collo, due gambe corte e il ventre in fuori. Nella faccia piena e massiccia nessuna fantasia di linee, il naso ridotto a un piccolo grumo di carne, il mento umiliato da una fossa orribile, come se al plasmatore fosse scappato un colpo troppo forte di pollice. Gli occhi poi, forse belli, ma spenti e smarriti nella miopia. A quest'ultimo difetto Babbo Schubert soccorse per tempo, imponendo al suo piccolo un paio di grosse lenti e mandandolo così in scuola, tra la meraviglia di tutti i cittadini di Lichtenthal. Insomma, se mai esistette un bambino di precoce aria didattica, questo fu proprio Franz Peter. Se non che, dopo pochi mesi di insegnamento musicale, il rude genitore provò i più fieri sussulti. Per quanto rispettoso e attento, il marmocchio dimostrava già ben chiaro di precorrere ogni volta le lezioni dei giorni seguenti. Assai preoccupato, Franz Senior trasmise il discepolo nelle mani del figlio primogenito, un giovanetto serio che onorava già di se stesso la civile professione paterna. Ignazio, bellissimo che vengono tutti tradotti, Ignazio provò col pianoforte ed anche qui accadde che l'allievo nel giro di 3 o 4 mesi ne sapesse meglio del maestro e che in maniera urbana lo avvertisse di non aver più bisogno di lui. Alla mente esterrefatta del capofamiglia si presentò una triste ipotesi. Uno dei suoi prodotti quasi sicuramente avrebbe preferito alla cattedra la sorte incerta del musico. Per sincerarsi, se era proprio vero, Franz Senior spedì quel traditore al distintissimo signor Holzer, insegnante del coro della piccola parrocchia di Lichtenthal. Il distintissimo signor Holzer chiamò per testimoni l'organo, il solfeggio cantato e l'improvvisazione al cembalo. Poi, in capo a qualche settimana, fece il suo rapporto e concluse che il monello, nelle dita minuscole, possedeva già l'intera armonia. Di fronte a tante prove bisognava ormai rassegnarsi. In ottobre dell'anno 1808, udito che la Cappella Imperiale aveva lanciato concorso per un posto di soprano con annessa borsa di studio nel convitto civico, Franz Senior portò a Vienna il bambino. L'abito migliore che si poté trovare fu un gran vestone quasi bianco, lungo fin sui piedi, da dove la testa emergeva come da un semicupio latteo scintillante per il vetro degli occhiali. Sulla porta della cantoria, Franz Senior disse addio al figliuolo e andò ad aspettare l'esito degli esami nella biblioteca di Vienna. Più decine di ragazzi tentavano la sorte del saggio e quasi tutti avevano ricevuto un regolare insegnamento. Adesso erano adunati in un vasto corridoio e attendevano che la commissione li mandasse a chiamare. Quando Schubert comparve, fu uno scoppio di riso. «Ma questo è il figlio di un mugnaio! È un uomo fatto di farina!» Franz Peter rise anche lui, la compagnia gli piaceva e così stese a tutti le mani. Disse che aveva ragione, che lui non ci aveva pensato. Uscì da un angolo un vecchio scaccino e intimò silenzio, percuotendo i più vicini con una sottile stecca di legno. Stava per arrivare il celebre signor Salieri, primo maestro di cappella e capo del teatro di corte. Si tenessero pronti a passare nella sala d'esami. Vi passarono, infatti, resi improvvisamente silenziosi dalla grande prova che stavano per sostenere. Soltanto Schubert continuava a parlare, meravigliandosi che nessuno gli desse più retta. Quando giunse il suo turno, si avvicinò ben bene al tavolo dei commissari, giacché, anche con l'aiuto delle lenti, il mondo e le persone gli parevano sempre distanti. Fece una bella riverenza al celebre Salieri, affondandosi ancor più nel suo vestone bianco e attese, sorridendo, di essere interrogato. La terminologia ufficiale era tutta diversa da quella che gli avevano insegnato a Lichtenthal, ma Schubert comprendeva benissimo il linguaggio di Salieri e degli altri suoi giudici. Poi, messo dinanzi a un difficile solfeggio cantato, lo decifrò senza un attimo di incertezza. Fu subito chiaro che era vincitore. Salieri dichiarò esaurita la prova e il piccolo Franz aspettò il ritorno del babbo. Primo pezzo questo per introdurvi Schubert, il piccolo Schubert direi, il Francesco Pietro, come dire, e ci andiamo ad ascoltare subito un brano, l'Impromptu, opera 90, numero 2, il secondo movimento, quindi a tra poco. Thank you. L'ingresso nel convitto civico incomincia per Schubert l'abbandono totale al genio incomprensibile della sua corta esistenza. Incomincia l'avventura di una vita contraddittoria, dove il vivente non ha alcuna cura, forse alcun interesse di spiegarsi a se stesso, e dove gli atti materiali vengono compiuti attraverso una specie di fatalismo meccanico, tanto per illudersi e illudere di essere presente. La libertà perduta, l'aria troppo civile degli allievi esterni, giovani viennesi di aristocratiche famiglie, tanto differenti dagli antichi compagni di Lichtenthal, l'aritmetica ragionata in latino, il vitto deficiente e l'orrendo freddo invernale insinuano nel cuore di Franz Peter la prima nozione dell'infelicità e del dolore. Ma una sola parola, un solo mezzo sorriso, magari destinato ad altri, bastano per eccitare in lui l'impulso naturale di farsi specchio del mondo e di rifletterne le luci, fin quando sussista anche un minimo residuo di forza. Schubert non può astrarsi in se stesso perché nell'abbondanza del suo spirito tutte le cose, tutti gli uomini assumono ben presto la figura di una grande astrazione. La sua fantasia e il suo entusiasmo percorrono sempre gli eventi, il suo potere di immaginazione sfiora la realtà per un attimo e subito trascorre via andando a crearne una nuova, in un nuovo paese. Il cibo dunque era scarso e cattivo, tuttavia, scrivendo una letterina al fratello Ferdinando e dicendogli che qualche mela e un pandoro dolce sarebbero una festa grande, ecco che già gli sembrava di aver mangiato quelle ghiottonerie modeste. Gli studi letterari continuavano una pena severa. Una pena severa, però là dentro gli insegnavano anche la musica. E quasi ogni sera i piccoli e i grandi si riunivano in sedute di orchestra. Sì, è vero, raschiavano un po' tutti sui violoncelli e violini, soffiavano senza nessuna esperienza dentro il tubo degli oboi e dei corni. Pure era facilissimo, da quelle scadenti esecuzioni, formarsi nella testa l'idea di una perfetta armonia. Lo spettacolo di un essere umano, soprattutto di un altro ragazzo, rompeva dopo pochi istanti la solitudine di Schubert, giacché egli non poteva riempire la distanza fra il suo io e l'assoluto se non passando attraverso la serie dei consimili. E nel collegio strinse le prime amicizie, supplì a questo bisogno categorico della propria natura, a quest'ansietà di echeggiare in un altro. Nella inclinazione alle osterie, che diventerà fra qualche anno una caratteristica della sua condotta esteriore, l'amore per il vino rappresenterà una fase secondaria. L'elemento diretto sarà il tavolo intorno cui le persone sono già umanamente predisposte a conoscersi, il senso di un tetto costruito per viandanti, l'antidoto contro l'idea del restar fuori. E così il tempo passa nel convitto un po' tetro fra una primavera e un inverno, fra la meraviglia di continue scoperte. Ora Franz Peter indossa una divisa di bottoni lucenti e codesta specie di marsina soldatesca non gli sta meno peggio del vestone bianco. Fra i compagni di orchestra è il più piccino di tutti ed è l'ultimo arrivato. Suona perciò in piedi, leggendo con le grosse lenti sul leggio di un altro. Incontra da vicino Haydn e Mozart, vede rivelarsi ai suoi occhi l'estrema angoscia e l'estrema letizia. Immagina un universo di ouverture e scrive a suo fratello che in codesto universo l'ouverture delle nozze di Figaro è la più bella di tutte. Poi manda un'altra lettera: sai, m'ero sbagliato, c'è anche l'ouverture del flauto magico. A poco il suo destino si compie. Una sera, che nella sala di ricreazione non c'è anima viva, l'interno von Spaun, che si è già meravigliato di sentirlo suonare in un'orchestra con tanta precisione e con tanto fervore, lo sorprende al pianoforte mentre sta improvvisando. Schubert si alza, tutto rosso in viso. Non dirlo a mio padre, giura di non dirlo a mio padre. Sa benissimo che Franz Senior lo ha messo lì dentro per farlo studiare gratis e per fingere di accontentarlo nella sua inclinazione, ma che la meta ultima non deve essere la musica. Von Spaun, tuttavia, parla agli altri compagni di quanto ha visto e sentito. Il direttore d'orchestra del collegio, Ruschka, vuole esaminare le composizioni che il ragazzo scrive sulla copertina dei quaderni di scuola, tracciando bene o male le righe del pentagramma, e dice anche lui: «Non ho quasi nulla da insegnargli. Questo Schubert ha già imparato tutto dal buon Dio». A lungo andare, l'orribile notizia raggiunge la casa di Lichtenthal e il babbo adesso si spiega perché le votazioni del figlio in materia di storia e aritmetica vadano segnando un costante regresso. Il reprovo viene convocato davanti al tribunale paterno. È una scenata furiosa, dove l'onore di famiglia e la responsabilità della vita vengono messe in gioco da un tirannico pedagogo. È in fondo un monologo brutale di Franz Senior, concluso con la cacciata di casa e con l'ordine al figlio di non farsi mai più vedere nel rispettabile sobborgo di Lichtenthal. Schubert aveva allora poco più di 13 anni, se ne andò tristemente, mentre dalla soglia vietata la madre e i fratelli, sorvegliati dall'inflessibile giudice, lo guardavano piangendo e non potevano neanche dirgli addio. Così, solo e sperduto, si attaccò ancor più forte agli amici di collegio e alla musica. Si abbandonò con ebbrezza ancor più profonda all'estasi musicale che diverrà d'ora innanzi il suo modo di esistere. All'inizio della primavera, l'anno 1812, gli moriva la madre. E solo allora, prima che la salma venisse deposta nella bara, il ragazzo, per intercessione dei fratelli e del vecchio suo maestro Holzer, poté rimettere piede nella casa paterna. Per Franz, il prezzo della riconciliazione era stato molto gravoso. Sentì che nel mondo ogni essere vivente fluttuava tra continue minacce e che forse, per allontanarle dal capo dei suoi cari, qualcuno si offriva qualche volta in dono alla morte. La donna dolce e silenziosa aveva spento l'ira del padre e, partendo per un misterioso paese, aveva addirittura ottenuto che gli potesse dedicarsi alla musica, ma con un crudo dolore gli aveva fatto pagare la gioia e con l'ombra sua, immobile laggiù nel piccolo camposanto campestre, gli aveva velato per sempre la chiara visione delle colline di Döbling. Intorno a lui le cose e le voci dell'infanzia assumevano significati imprevisti. Le poesie imparate in scuola non erano ormai più né semplici parole né semplici armonie. Dal gioco di strofe e di rime sorgeva adesso una vaga coscienza, come una similitudine degli eventi e come un modo generoso di liberarsene o di averne conforto. Così, lentamente, da un'originaria distanza favolosa, i poeti si avvicinavano, tramutati in realtà di fratelli. Nemico era il tempo, poiché dal suo seno si andavano creando i giorni di gioia e nel suo seno medesimo essi si dissolvevano, nati e morenti, per opera di un unico padre. Sempre con noi, compagno inseparabile, Franz aperse un quaderno e vi scrisse una quartina di Esait. Ecco però, quella discesa nella tomba, quel ritmo atroce del nostro consumo si poteva arrestare. Ogni pensiero e ogni immagine potevano fissarsi in eterno ed essere tratti in salvo, fuori dalla corrente distruttrice. Ecco, bisognava guardarsi in giro con occhi diversi. Bisognava, come il tempo, creare, essere a nostra volta liberi autori di vita e quindi uscire dalle nostre creazioni per sottrarsi alla fatalità della morte. E Radio Wombat, ovviamente state ascoltando La Fuga del Gatto, e vi ricordo velocissimamente i nostri social Wombat, ovvero il sito che probabilmente è il tramite con cui ci state ascoltando adesso, che è wombat.noblogs.org, e anche la casella di posta wombat@insiberia.net. Questo perché sennò poi me lo dimentico e mi rimprovero da sola. E adesso interrompiamo un po' ancora questa lettura con il terzo movimento, quindi il movimento successivo, sempre dell'Impromptu, opera 90, ovviamente di Franz Peter Schubert. Thank you. se vi foste messi all'ascolto solo adesso di questa trasmissione radiofonica, o se per caso vi siete invece addormentati, vi siete svegliati e non vi ricordate più chi siete e dove siete, vi ricordo che quello che vi sto leggendo sono dei brani tratti dall'ultimo degli Innocenti, il capitolo dedicato a Schubert della storia della musica di Giulio Confalonieri, che se volete andare a leggervelo per integrale lo trovate nelle edizioni Accademia, non mi ricordo più di che anni è, ma insomma si parla probabilmente anni 70, se non sbaglio, la prima edizione, sì, 1975. Ora, qui, da un punto di vista puramente didattico, occorre rilevare la strana posizione del giovane artista. Se si eccettuano i pochi mesi trascorsi alla scuola di Salieri, gli studi di Schubert risultano ancora meno regolari che non quelli di Beethoven. A 16 anni egli ha cessato di apprendere e tutto ciò che successivamente conosce gli si offre per via spontanea e immediata. Non costituisce mai una lezione, ma è il messaggio diretto, la confidenza illuminante di un altro creatore. Questa particolare circostanza toglie all'esperienza di Schubert ogni carattere ragionativo, e la rapidità degli incontri è talmente inaspettata che nessun logico intervallo può prendere posto tra il contatto e la sua ripercussione nell'animo. Là, da quelle fulminee frizioni, non può sprizzare che l'odio o il più cieco entusiasmo. Di conseguenza, solo gli stati d'animo appariranno a Franz come eventi reali e costituiranno, ai suoi occhi, la norma legittima dell'atto creativo. Così, le uniche cose che lo possono guidare, che lo possono sollecitare a comporre, sono quella stessa fiamma di entusiasmo, quello stesso riempimento da cui si sente pervaso non appena la curiosità o la sorte gli fanno scoprire un'opera grande. Il suo maestro, il suo sistema, il suo metodo risiederanno poi sempre in una specie di tensione febbrile, in una specie di seconda esistenza, la quale, per la certezza del proprio calore e per l'assoluta consapevolezza della propria sincerità, non potrà non essere felice. Di qui avrà origine un aspetto singolare di tutta la produzione schubertiana, il ricalco incosciente di intere frasi, di interi episodi contenuti nei lavori di altri maestri, e la novità straordinaria, l'audacia senza scampo, la temeraria evasione che un nulla basta ad accendere. Di qui ancora l'impossibilità quasi completa di ascoltarsi dal di fuori, di mettersi, sia pure per un attimo, nei panni dell'ascoltatore, la trascuratezza di controllare se la scrittura sonora, quella che rappresenterà l'unico documento delle sue visioni, sia stata tutta e fedelmente annotata. Di qui, infine, l'aspettarsi un entusiasmo da qualsiasi spettacolo o da qualsiasi aderenza umana, la prontezza a vedere tutto e tutti sotto specie di musica, quell'attesa sempre benigna che nell'esteriorità quotidiana faceva di lui un ottimista ed un fanciullo. Proseguiamo anche nell'ascolto, non solo nella lettura dei brani, e quindi arriviamo, passiamo dall'ascolto di brani per solo piano a una composizione invece per archi, e in particolare quello che vi faccio ascoltare adesso è il quartetto d'archi numero 14 in mi minore, altrimenti detto La morte e la fanciulla. Ci ascoltiamo il primo movimento, perché l'intero quartetto d'archi, ahimè, è piuttosto lungo, ahimè, per fortuna. Ma ai nostri fini biechi della trasmissione, con i tempi serrati, è troppo lungo, e quindi vi faccio ascoltare solo il primo movimento allegro. Thank you. La grande spedizione viennese ebbe luogo alla fine del 1817 e fu un viaggio di pochi chilometri ma più affascinante di una lunga crociera. La capitale viveva ancora dentro l'atmosfera del grande congresso e, dissipato l'incubo napoleonico dopo tanti anni di lotte, dopo due invasioni, dopo la strana sveglia del 1815 che sul più bello della festa aveva ricondotte le cose al punto di prima, la capitale, non mai ben convinta di dover prendere troppo sul tragico gli effetti della furia francese, era adesso proprio felice soprattutto di non avvertire più nella gioia l'ombra anche vaga di un qualche rimorso. Fosse realtà o d'apparenza, l'Austria si pavoneggiava nei panni di una massima potenza europea e della sua supremazia continentale oggi si può dire che usasse con un certo buon gusto. I viennesi stavano riassumendo la loro parte di dilettanti di altissima classe. Un'elegante fantasia scintillava persino nei ceti più umili, una capacità naturale di modellare la vita in forme morbide e graziosamente civili. Gli interessi più intensi risiedevano nella parte dell'immaginazione. Il nastro colorato sulla cuffietta di una popolana era una conquista e uno slancio creativo, così come un ballo fastosamente regolato era la vittoria di una casa aristocratica. Non so neppure io quanti abbiano trovato sapore di Senna nelle acque del Danubio in principio di secolo. Sì, è vero, ma mentre i parigini a un certo punto si scontravano sempre con la politica e qui allora diventavano tutti gravi, noiosi e non di rado feroci, i viennesi non riuscivano mai ad occuparsene con vera passione. Erano assai contenti di aver delegato questo incarico ad un gruppetto di persone per nulla popolari e così, liberati, poter pensare a ben altro. Come dice Grillparzer, l'immagine monotona della verità era tutta circonfusa di racconti e di giochi. Ogni cosa trasvolava palpitante e svelta verso il cielo della musica. E musica si udiva ovunque, per le strade anguste della città vecchia, quelle che la necessità di resistere al turco aveva infoltito dentro il cerchio dei severi bastioni e quelle più arieggiate e apriche che Giuseppe II aveva aperto ai limiti estremi. Musica nella reggia e nei palazzi dei grandi signori, musica nei 10 e più teatri, musica nelle case borghesi dove pullulavano quartetti e persino orchestre di dilettanti, musica sul prater durante il rito della passeggiata mattinale, musica nelle osterie dei sobborghi, negli chalet isolati, spinti là verso le campagne del Danubio o verso i boschi di Itzing, suonatori ambulanti, alleati a ballerini, a prestigiatori, a ginnasti, a cavadenti, conducevano in giro una variopinta Babele, ora italiani, or levantini, or slavi, or zigani, attraverso un vorticoso susseguirsi di razze e di lingue. A Beethoven, che pur disordinatamente e in modo grezzo possedeva una specie di sistema filosofico, molte cose riuscivano insopportabili. La sua tendenza ad estendere il dramma dal campo dell'arte al campo della vita gli faceva odiare i soldati, gli faceva disprezzare l'apparato poliziesco e le migliaia di spioni disseminati un po' dappertutto. Gli faceva dire che gli austriaci non si sarebbero mai ribellati fin tanto che il governo avesse provveduto a rifornirli di birra scura e di salsicce di porco. In fondo si trattava di un aristocratico che non sapeva di esserlo, di un uomo che non era mai stato giovane e che ignorava del mondo le piccole e quotidiane meraviglie. Schubert, plebeo al 100%, sorvolava volentieri sulla tragedia del pane. Se poteva procurarselo, ecco, gli piaceva moltissimo, ma l'occhio miope inseguiva sempre i circenses. Sino a questo momento noi possiamo dire che Schubert non avesse conosciuto il dolore. Ciò almeno se per conoscenza del dolore si voglia intendere una forma di pensiero, un atteggiamento della volontà anteriore ai fatti occasionali e persistente come forza attiva, non legata a stimoli determinanti. L'ingenuo impulso vitale e l'inesauribile stupore, la simpatia istintiva e la facilità di vincere le memorie, l'estremo potere di saper tutto comporre in forme fantastiche, così da annullare il dato reale attraverso la meraviglia di libere riproduzioni, aveva attratto Franz Peter a considerare il dolore come una ipotesi provvisoria o come parte di quel mondo dove egli entrava tanto spesso dominandone senza sforzo gli spiriti, ma dove, librandosi in armonie sovrumane, del mondo di ogni giorno non scorgeva più nemmeno l'ombra. Per la loro intensità e perfezione, le angosce di Margherita o la malinconia del cacciatore notturno si muovevano al di là di qualsiasi costume quotidiano. Avrebbe avuto pudore di applicarle a se stesso, di farle retrocedere da una sfera assoluta a un piccolo angolo personale. Questo ragazzo, timido e modesto, credeva fermamente nell'autonomia degli eroi e anche quando ne fosse lui il padre, non appena procreati, si sentiva ad essi inferiore, tanto che mai avrebbe usato di paragonarvisi. E proprio dalle angosce di Margherita ripartiamo adesso con il prossimo ascolto, il prossimo brano, che è proprio Margherita all'arcolaio, il brano Il Leader, di cui appunto si stava accennando anche in questo brano di Giulio Confalonieri. Quindi Margherita all'arcolaio, uno dei famosissimi nonché bellissimi leader di Schubert, scusate. Fate caso, mi raccomando, alla meraviglia che scaturisce dal continuo incessante rumore quasi dell'arcolaio battuto da Margherita. Doch dürft ich nur mamma mia. E dopo Gretchen Hamspinrade, il leader, ovvero Margherita Arcolaio, non mi riesce di dirlo, tanto è l'emozione dopo questo brano meraviglioso. E dopo passeremo anche a altri due leader che poi sono gli ultimi ascolti anche della puntata di oggi. In particolare c'è sempre un po' un viaggio, un continuo racconto, quasi come si trattasse in qualche modo sempre di un viaggio. Qui era un arcolaio continuo e nel prossimo che ci andremo ad ascoltare invece Der König in Thule, il re di Thule, è comunque anche lì una sorta di viaggio, anche se non letterale. Se noi consideriamo la musica come interpretazione possibile di tutto quello che accade, di tutto quello che si muove o può essere posto in moto, come un'impronta necessaria di ogni nostro pensiero e come un messaggio ininterrotto con ogni storia, che ogni presenza d'altri racchiude in se stessa e attende di veder liberare, allora la sua storia assumerà l'aspetto di una progressiva scoperta e i suoi personaggi rivestiranno la figura di solitari viaggiatori, ogni giorno padroni di nuove terre incognite. L'estremo spirito di indipendenza che durava in fondo alla modestia e al pudore di Schubert, l'ignoranza di qualunque gerarchia nel vero, l'impossibilità di possederlo se non attraverso un'immagine e attraverso uno stato emotivo, furono altrettante condizioni privilegiate per compiere quest'opera di approfondimento e di fraterna redenzione nei confronti dell'uomo vivente. Gli antichi ossequianti all'autorità della pura legge musicale erano pervenuti a scoprire un'etica nell'ordine dei propri sentimenti e in un certo senso avevano esercitato sopra di essi una sorta di azione critica, così da innalzarli verso modelli esemplari. Lo stesso Beethoven, che stabilisce da sé le sue norme, che rivendica a sé solo il diritto di dichiarare il bene e il male, lo stesso Beethoven, per questo atto supremo di coscienza, divenne un po' schiavo, come già dissi, di alcune idee centrali. L'amore alle idee, anzi la passione dell'idea, fece sì che i suoi sentimenti assumessero una forza grandiosa, un potere persuasivo e una capacità di espansione forse insuperabili. Nel tempo stesso, però, il rispetto quasi fanatico di cui li aveva circondati pose come un limite al loro numero e al loro desiderio di moltiplicarsi. Un che di puritano trattenne il gran sordo dalle ricognizioni più pericolose. Schubert, al contrario, passò attraverso la vita senza mai estrarne un giudizio, sopraffatto da una simpatia così intensa, da una curiosità così affettuosa, che anche il piangere di una sciagura reale o immaginaria, di un'angoscia sua o di altri, rappresentava per lui una consolazione ed un assolvimento di impegni. La stessa natura, questa presenza insuperabile, della quale i romantici non sanno più liberarsi, vive con Schubert in rapporti assai differenti che non con Beethoven. Di Beethoven già dissi, per Franz Peter le cose create non sono un eco di noi stessi e soprattutto non esattamente come i nostri occhi li vedono o come il nostro udito le sente. Esse conducono a una vita segreta, nascondono moti segreti fra il paziente lavorio delle ninfe, segrete armonie fra l'eterno cadere delle acque, scopi oscuri ed oscure rivolte fra gli scrosci del cielo, occulte allusioni sotto il velo di impossibilità apparenti. Al pari degli uomini, essi sono buone o cattive, soggiacciono ad un destino d'odio o d'amore, sono libere o serve, ristanno purificate o tendono ciecamente e faticosamente verso una composizione e a una pace. Non tanto da noi ad essi intercorrono messaggi, quanto da esse a noi. La natura sente in un certo modo il bisogno di rivelarsi, di esprimere il ritmo e le fatiche della propria vita, di trasmettere fino alla nostra coscienza i contorni del suo esistere, la personalità dei suoi esseri singolari, il significato che pure oscuramente ogni cosa animata o inanimata sa di possedere. Ma per affermare il contatto non basta da parte nostra una semplice catarsi panteistica, non basta la pura volontà di espandersi, l'impulso a un superiore riposo, l'evasione da se stessi, pronta a percepire i modelli di una nuova grandezza. Occorre una lucidità sempre sveglia, una carità sempre attenta, un orecchio in un ascolto perpetuo. E occorre talvolta il potere di sapere anche crearsi una natura immaginaria, così da raggiungere quella visione profonda che i nostri soli sensi non saprebbero mai percepire. In tal stato, un po' allucinante, il possesso della propria persona perde l'orgogliosa importanza che noi siamo abituati a riconoscergli e cede per far posto a una prontezza divinatrice. L'anima, così spoglia delle sue effimere sicurezze, è esposta a tutte le consolazioni e a tutti i terrori. Non esiste più frontiera ai personaggi del dramma, e dai boschi, dai cieli, dalle profondità della terra, dall'interrogativo delle città addormentate, mille spiriti, eternamente sospinti da una cieca tendenza a incarnarsi, inviano i loro interlocutori. Dai tempi di Schubert ad oggi, il lead, la melodie francese, la canzone moderna e ogni altro tipo singolo riferibile a un medesimo genere sono andati molto lontano. Ma quanto ha attuato Franz Peter resta come imprescindibile presupposto, come una verità acquisita che per lunga sicurezza e per benefici a lungo esercitati continua a operare in qualunque nostra intrapresa, anche se la coscienza non se ne rende più conto. Prima di Schubert, e qui non mi riferisco soltanto al genere leaderistico, bensì ad ogni manifestazione di parola e musica, i compositori avevano tradotto coi suoni la forza di un testo poetico, la intensità più acuta che il fatto poetico conferisce ai sentimenti o alle immagini. Dalle situazioni di un dramma, dai versi di un poema, essi altresì avevano estratto una serie di concetti, attraverso una sorta d'ordine e di gamma dinamica avevano fatto scorrere le precise affermazioni delle loro melodie o delle loro armonie. Per Schubert il passaggio dalla poesia alla musica avviene in maniera essenzialmente diversa. Per lui ogni composizione poetica raggiunge innanzitutto i caratteri di un vero e proprio evento, l'incisività di un ritmo totale, serrato in decisi contorni dal primo all'ultimo verso. Sicché, al di là del discorso, la poesia fissa qualcosa nel tempo fluente, muove qualcosa nello spazio immobile, risveglia intorno a sé il complesso di mille azioni sussidiarie e le induce a seguirla, le indirizza verso un'armonia unitaria, verso un riassunto espressivo. Quest'intima qualità della poesia soggiace però come nascosta. Il mezzo di cui essa dispone non è né abbastanza rapido né abbastanza molteplice e soprattutto non risuona abbastanza, non sa durare nella memoria e nella sua suggestione, perché è scarsamente provvisto di elementi sensuali, perché il suo stesso modo logico di manifestarsi implica l'ipotesi di un'altra logica, vale a dire il pericolo di un superamento immediato. Per mezzo della musica il punto poetico, la brillante convergenza di infinite linee e di infinite parabole, lo shock immaginativo, se così posso esprimermi, rappresentato dall'intuizione poetica, può venir preservato, anzi ricondotto al suo stadio iniziale, lo stadio più puro, lo stadio più completo e più ricco di virtù originarie. E dov'era l'altro pezzo che volevo leggervi? Ecco qua. Il drammaticismo di Schubert non è mai teatrale, e questo in un'epoca in cui le manifestazioni congiunte di musica e di parola si verificavano esclusivamente attraverso il teatro, vuol dire aver creato un mondo nuovo. Franz Peter, anche nelle espressioni più tese, anche nei contrasti più crudi, anche nei momenti di assoluta urgenza tragica, conserva un che di narrativo. È sempre l'Aedo che riferisce per arcana ispirazione degli dèi, o se volete, è il fanciullo che non grida, che non rappresenta, ma che si rappresenta, e che pertanto dà una voce sommessa, da un sottile brivido sonoro, percuotente l'immobilità del silenzio, è tratto a vedere senza bisogno di concrete visioni. Questa speciale attitudine, mentre si risolve dal punto di vista musicale in scoperte di immenso valore, dal punto di vista poetico significa rispetto massimo a quei limiti precisi per cui la lirica ha una sua necessità e una sua fisionomia costante in confronto alla drammatica o all'epica. Per spiegarmi con diverse parole, dirò che Schubert non impone quasi mai l'effetto drammatico, non lo rivela direttamente opponendo uno contro l'altro i suoi termini, cercando innanzitutto un'eloquenza musicale drammatica. Egli lo fa nascere piuttosto in noi stessi, come nostra produzione, mediante l'atmosfera, l'annuncio, lo stato di allarme, la supertensione che già rivelano le prime battute di un lead. E per la condizione drammatica in cui il compositore si presenta, che noi, come per il premonimento di un rabdomante, sentiamo di trovarci di già sopra un terreno drammatico. Quindi siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi ho letto un po' di cosette, sicuramente non esaustive, sicuramente solo qualche pennellata che però magari vi hanno aiutato a entrare nello spirito di Franz Peter Schubert, come dice il nostro Giulio Confalonieri e il buon Francesco Schubert. E vi lascio quindi in compagnia della programmazione e dei programmi di Radio Wombat, ma prima vi farò ascoltare un ultimo leader, in particolare Auf dem Wasser zu singen, ovvero cantare sull'acqua. Con questo vi saluto, vi do appuntamento con la Fuga del Gatto a domenica prossima. Saluto la Virgi che mi ha abbandonato oggi, ma che spero tornerà dalla prossima puntata, e saluto anche voi, i miei fedeli e fedelissime ascoltatrici e ascoltatori. Ciao ciao! No, non lo faccio perché ho sbagliato traccia, ecco, è questa invece. Ciao! Der spiegelnden Wellen gleitet, wie Schwäne dir wanken kann. Ach, auf der Freude samt schimmelnden Wellen gleitet die Seele dahin, wie dir kann. Ach, auf der Freude samt schimmelnden Wellen. dahin wieder kam. Denn von dem Himmel herab auf die Wellen tanzte das Abendrot rund um den Kahn. Tanzte das Abendrot rund um den Kahn. Es winket uns freundlich der rötliche Schein. Unter den Zweigen des östlichen Haines säuset der Kalmus im rötlichen Schein. Unter den Zweigen des östlichen Haines säuset der Kalmus im rötlichen Schein. Wellen die Zeit, morgen entschwinde mit schimmernden